stiamo parlando di decimali e stiamo parlando di previsioni, quindi numeri che potranno avere qualche errore, ma comunque quello che è importante è la tendenza, cioè le cifre stanno migliorando, mentre invece qualche mese addietro stavano andando nella direzione opposta, cioè la crescita era più bassa di quanto pensavamo. 2,5-3% con qualche nube, questo era inevitabile. Allora, mi sembra che anche voi poniate l'accento sulla disoccupazione. Già Dominique Strauss-Kahn, direttore del Fondo Monetario Internazionale, ha detto: attenzione, persi 30 milioni di posti di lavoro, bisognerà metterne in sicurezza 400 milioni. Ci è sembrata così un allarme un po' catastrofistico, però quanto pesa nelle vostre stime il tema disoccupazione sulla ripresa, seppur fragile, ma in corso? La disoccupazione pesa molto perché, come ci aspettavamo purtroppo, è aumentata moltissimo dopo la recessione, ma adesso stenta a diminuire, anzi in alcuni casi non diminuisce. La disoccupazione elevata è un problema per la ripresa perché ovviamente peggiora lo stato di fiducia delle famiglie, il reddito delle famiglie non va su e quindi il consumo non va su, non sostiene la ripresa, con la possibilità di circoli viziosi. Quindi trovare forme per sostenere l'occupazione in una fase di crescita debole è estremamente importante.